Dai garruli tempi del Levitico ai cupi giorni nostri, di tempo e di idee ne sono passati. Nel Levitico, capitolo 24, dopo aver chiesto a Mosè puro olio d'oliva con quel che costa, 12 focacce e un po' di incenso, il Signore dà istruzioni precise su come debba essere trattato chi viene colto a bestemmiare. La soluzione più efficace sembra dovesse consistere nel prendere il reo, portarlo di peso fuori dal villaggio e affidarlo a tutti coloro che ne avessero udito la bestemmia, a costoro il compito di lapidarlo senza indugio, onde prevenire ogni forma di recidivanza. Nell'attuale codice di diritto canonico, ad arretta al canone 1369, nel capitolo dedicato alle pene per i singoli delitti, le cose vanno diversamente. Chi in uno spettacolo, in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato o in un altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, recita infatti il canone, proferisce bestemmia ed offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con la giusta pena. Che dell'antica severità non vi sia più traccia è evidente non solo dal fatto che allorquando si tratti di definire la giusta pena il codice medesimo diventa particolarmente laconico, ma anche dal fatto evidente che la bestemmia privata o proferita fra pochi intimi, purché non giornalisti, non vi è presa neppure in considerazione. Anche questa, almeno in parte, deve essere figlia della riflessione, almeno della cosiddetta riflessione pastorale sui mass media. Fra gli estremi, comunque, la storia è ricca di soluzioni intermedie, con picchi improvvisi anche di rigore repressivo. Tanto per fare un esempio, in Francia, Filippo V, con un'ordinanza del 1347, aveva stabilito tutta una gerarchia penale correlata al numero delle bestemmie nel tempo. La prima veniva sanzionata con la berlina e 30 giorni di pane e acqua. La seconda bestemmia con la berlina e l'incisione del labbro superiore, con il ferro rovente. La terza con l'incisione del labbro inferiore. La quarta con l'asportazione delle labbra e la quinta, se Dio vuole, infine, con l'asportazione della lingua. Il fatto che la sesta non costituisse un'opportunità da prendere neppure in considerazione mostra come l'idea di linguaggio che affliggeva i nostri progenitori fosse molto limitativa in chiave di materialismo comportamentista. La parola e quindi la bestemmia erano considerate possibili soltanto in quanto fonazione, evidentemente. Come spesso capita, tuttavia, dopo aver sistemato fino alla 12ª generazione i costruttori di berline e i fabbri ferrai che avevano vinto l'appalto, le sanzioni non vennero più applicate. Così, nel 1588 si era tornati da capo e si dovette riemettere un'ordinanza che ristabiliva la berlina, l'ablazione delle labbra e l'asportazione della lingua, ordinanza che già nel 1594 veniva corretta in senso bonario da Enrico IV. Da Enrico IV che nell'indulgenza verso il popolo bestemmiatore vedeva soprattutto un modo elegante di concedersi al proprio turpiloquio e al proprio libertinaggio. 36 anni dopo, tuttavia, del problema tornava ad occuparsi Luigi XIII e lo faceva, è il caso di dirlo, con quell'occhio più moderno che non dispiacerebbe ai vari Amato, Ciampi, Berlusconi e Dini che si avvicendano in questi nostri anni nell'ingrato compito di rubarci quanti più risparmi è possibile. Luigi XIII, infatti, individuò nella bestemmia il tipico reato da sanzionare con una multa pecuniaria che veniva moltiplicata fino al quarto caso di recidivanza. Soltanto dalla quinta bestemmia in avanti, fermo restando il quattrino da sborsare, c'era la berlina e le ablazioni varie. L'ingegno di questo re, così ingiustamente trascurato dalla storia, era tale il suo ingegno che capì le potenzialità estensive del sistema e decise di applicare le multe anche a coloro che, pur avendo udito una bestemmia, non avessero denunciato prontamente il bestemmiatore. Anni d'oro quelli, per le casse dello Stato. Pio V nel 1566 accetta l'idea dell'ammenda solo per la prima bestemmia, poi passa alla frusta e infine, per i recidivi tenaci, al remo dove il reo avrebbe potuto tramutare il reato in altrettanta energia di utile sociale. Venuto meno l'uso sociale del remo e passate le fruste alle case di piacere, nell'Ottocento l'ammenda è rimasta accompagnata dal bando e da quell'anticipo della giustizia moderna, baluardo dell'integerrima magistratura, noto come pentitismo e a quel tempo detto ritrattazione. Così, fra su e giù, fra inasprimenti e indulgenza, a seconda dei rapporti fra potere clericale e potere politico, si è trascinata la questione. Oggi, la nostra Corte Costituzionale ha ancora davanti il problema. Chi bestemmia è penalmente perseguibile e l'articolo 724 del codice prevede un'ammenda da 20.000 a 600.000 lire per una gerarchia di aggravanti che non oso neppure immaginare. Basta fare la spesa al supermercato per rendersi conto che con 20.000 lire al massimo si possono fare le linguacce ad un sagrestano di periferia. Il problema della Corte, lo so, non è dei più semplici, perché a dire il vero, non riescono neppure a mettersi d'accordo su cosa sia una bestemmia. Infatti, il nostro codice la definisce in rapporto ad una religione dello Stato e perfino ad un magistrato deve riuscire difficile oggi dire con certezza, senza proferire una bestemmia o suscitare le ire del proprio codice penale, quale sia questa religione.